l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, come ogni sabato qui da Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa dell'attualità, l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, per respirare insieme quello che è lo spirito dell'Unione, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network europeo, tante voci in lingua originale, appunto per raccontarla questa Europa. Ci trovate sia su Facebook sia su Twitter, le pagine sono le mie personali, Federico Taddia, oppure la mail che è l'altraeuropa@radio24.it. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Lituania. La Lituania a succedere all'Irlanda la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea a partire da lunedì 1 luglio 2013. Inizia il semestre a guida lituana. Volevamo appunto approfondire l'argomento, capire quella che è l'accoglienza intanto di questo, che è sempre un appuntamento molto importante, e quelle che saranno le problematicità, quelle che sono le aspettative legate a questi sei mesi. Per farlo abbiamo invitato un corrispondente lituano in Italia, lui è uno dei giornalisti della stampa estera. Diamo il benvenuto a Paulus Jurkevicius. Ciao Paulus, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. La Lituania inizia questo importante semestre. Cosa significa per il paese lituano presiedere il Consiglio per la prima volta? Beh, comunque, come ogni prima volta, anche questa, diciamo, dopo, forse è un evento più importante dopo l'adesione all'Unione Europea. C'è ovviamente un po' di tensione, direi abbastanza sana, un po' di preoccupazione, un po' di domande: ce la faremo, andrà tutto bene? Anche ci sono le preparative logistiche, insomma, ci saranno tanti ospiti. Vilnius è una bella città a misura d'uomo, su 500.000 di abitanti, più o meno come Firenze, però forse questo sarà l'evento, diciamo, più grande dal punto di vista geopolitico in tutta la storia della Lituania, di questa città, con tutti questi eventi, summit che si prevedono durante i prossimi sei mesi. Quindi un'attesa e una trepidazione non solo politica, anche i cittadini stanno aspettando con orgoglio questo momento? Certo, anche per raccontare la Lituania, per far vedere all'Europa i progressi che sono stati fatti, soprattutto nella luce della crisi economica che da noi ha avuto il suo punto estremo nel 2008, ma adesso la Lituania sembra aver brillantemente superato tanti problemi ed è uno dei, direi, pochi paesi dell'Unione Europea che ha una crescita costante. Un paese giovane, un paese ricco di giovani, un paese dove c'è fermento anche culturale, c'è fermento economico, c'è fermento soprattutto creativo. Uno dei compiti che la Lituania si assegna nel ruolo di presidente di turno, il presidente lituano l'ha affermato qualche settimana fa, è quello di tentare di migliorare i rapporti tra l'Unione Europea e la Bielorussia. Quali sono le altre priorità della presidenza lituana? Sì, diciamo, tutte le iniziative della cooperazione tra l'Unione Europea e i cosiddetti paesi dell'est europeo, come la Bielorussia, come la Moldavia, Ucraina, Georgia, Armenia, con Bielorussia, insomma, problemi di politica estera, di politica interna ci sono, ma poi ci sono anche paesi, come ho detto, come Georgia e Ucraina, che hanno queste aspirazioni di firmare i accordi di cooperazione, di associazione all'Unione Europea, e ovviamente la Lituania guarda con molta attenzione alle capitali dell'est europea. E questo sicuramente sarà una dei tanti punti importanti dell'agenda della presidenza di questo semestre. Mm-hmm. Poi si parla di sicurezza informatica, anche lotta al terrorismo, sono altri punti in agenda, ma secondo te qual è il vero valore aggiunto che la Lituania può portare in Europa oggi? È proprio questa attenzione ai giovani, è questo entusiasmo? Sì, diciamo, questo problema ha una duplice visione. Da una parte abbiamo tanti giovani che sono forti nel campo informatico, abbiamo dei informatici veramente molto preparati, d'altronde c'è questo anche un problema sociale, quello di emigrazione verso paesi più ricchi, quindi su questo punto siamo molto attenti. Poi comunque il problema della sicurezza informatica sicuramente sarà affrontato, perché come ho detto la Lituania è uno dei paesi baltici, paesi dell'Unione Europea, che guarda molto attentamente. Noi siamo nel campo di informatica molto, un paese molto evoluto che ha investito molto su questo tipo di strategia, anche a livello di macroeconomica di tutti i giorni, quindi per noi questo problema è abbastanza vicino. Poi per quanto riguarda per esempio un altro punto dell'agenda molto importante, la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Noi siamo la frontiera esterna dell'Unione Europea e quindi per noi questa problematica è vicina, è molto ben conosciuta, è molto importante, quindi credo che anche questo tipo di valutazioni saranno sicuramente affrontate. Assolutamente. Il sito della presidenza lituana è www.eu2013.lt. Grazie davvero Paulus, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, appunto nei prossimi 6 mesi. Ciao e buon sabato. Grazie, arrivederci. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Raccontare le città con un disegno. Scorci di Berlino, di Napoli, di Parigi e di tante altre capitali, ritratti con carta, colori e matite. È l'idea che è venuta ad alcuni artisti, che in breve sono diventati centinaia, che hanno iniziato a raccontare le capitali di tutto il mondo e di tutta l'Europa con il vecchio metodo del disegno e a diffondere le loro creazioni con il nuovo metodo dei social network. Ogni ritratto è realistico, ma allo stesso tempo unico e personale. Il sito che raggruppa questi lavori è urbansketchers.org, ma in alcune città dal particolare fervore artistico sono nati dei blog separati, come quello che racconta Berlino, germany.urbansketchers.org. Prendete il mouse e cliccateci sopra se volete ammirare qualche ritratto, oppure prendete la matita, disegnate la vostra città e partecipate anche voi. L'altra Europa. Prvi sedmi ulazak Hrvatske u Europsku uniju znači završetak jedne faze, jedne mlade države, faze u kojoj su učinjene mnoge reforme, u kojoj je Hrvatska u svojoj povijesti učinila velike iskorake i po meni postala puno bolje društvo nego što je bila. Učinili smo velike iskorake na planu izgradnje institucija, ljudskih prava. Le parole che state ascoltando sono di Ivo Josipovic, il presidente croato, sta parlando dell'ingresso della Croazia, perché il 1 luglio la Croazia sarà il 28° membro dell'Unione Europea. Questa intervista è stata realizzata da Nicole Corrittore, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, e Nicole è qua con noi. Ciao Nicole. Buongiorno a voi. Con l'Osservatorio Balcani e Caucaso avete fatto un lungo dossier, avete accompagnato la Croazia in questi mesi, in questi anni, verso l'ingresso dell'Unione, e adesso che ci siamo proprio a un passo da questo importante traguardo, hai fatto questa lunga intervista al Presidente. Com'è stato, cosa ti ha raccontato e che umori hai raccolto? Il Presidente della Repubblica della Croazia è stato uno dei forti sostenitori dell'ingresso della Croazia in Unione Europea, sebbene lui sia in carica da 3 anni, ma sicuramente il processo è decisamente stato, ha raggiunto dei passi positivi, ha raggiunto un momento importante grazie al suo impegno come rappresentante politico e anche simbolico della Croazia. Ottimista e orgoglioso di ciò che la Croazia è riuscita a fare in questo lunghissimo percorso di avvicinamento all'Unione Europea. Io ricordo solo che la domanda di integrazione venne presentata nel 2003, quindi si parla di 10 anni fa. Sì. E il suo ottimismo fa un po' in realtà a pugni con un'opinione pubblica invece scettica, possiamo dire che oggi come oggi non è così contenta di entrare in Unione Europea, non solo per quella crisi economica che si vive in questo paese, ma anche per la situazione economica che c'è in questo momento in Europa. Certo, e tutta l'intervista la potete leggere sul sito balcanicaucaso.org. C'è una domanda che mi ha molto colpito quando le hai chiesto, appunto, la Croazia entra nell'Unione Europea 20 anni dopo aver condotto una lunga guerra, che è stata una guerra per l'indipendenza, e hai chiesto al Presidente se non temono di perdere parte di questa sovranità, di questa indipendenza che hanno conquistato, appunto passando, dando poteri all'Unione Europea. Qual è stata la sua risposta? Lui non vede nell'ingresso della Croazia in Unione Europea come una possibilità di perdita di sovranità, su questo è stato molto chiaro, perché comunque il progetto europeo è un progetto diverso da quello che poteva essere, se vogliamo fare un paragone, la federazione di Jugoslava da cui la Croazia è uscita nel 1991 dichiarandosi indipendente. Dice che è un progetto che insieme si realizza l'Europa e che è in itinere, quindi non lo considera un progetto concluso, dove ciascun paese deve dare e partecipare anche a dei cambiamenti rispetto alle sovranità nazionali, ma anche alla costruzione di concetti sovranazionali diversi da quelli attuali. Quindi vede un po' un futuro abbastanza mobile. Certo, questa è la Croazia che guarda l'Europa, poi c'è anche l'Europa che guarda la Croazia. A tal proposito ho letto un bel articolo sul portale eunews.it di Rosa Balfour intitolato Come la Croazia può aiutare l'Unione Europea e i Balcani. Rosa Balfour è qua con noi. Ciao Rosa, buon sabato. Buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. E come la Croazia può aiutare l'Unione Europea? Qual è la risposta che hai trovato a questa domanda? Beh, in più modi. In primo luogo è la dimostrazione vivente che l'Unione Europea ha ancora qualcosa da fare nell'Europa più allargata, insomma. È ancora un raggruppamento di stati che è attraente per paesi terzi e attraverso l'adesione all'Unione Europea la Croazia potrà rafforzarsi anche come Stato nazionale. È una delle cose paradossali dell'integrazione europea: si perde sovranità da una parte, ma dall'altra si rafforza la propria posizione, perché la Croazia entra va a sedere a un tavolo dove si prendono grandi decisioni importanti. È ovvio che la Croazia dentro l'Unione Europea conta più che fuori. Certo. E dimostra che il percorso di allargamento che l'Unione Europea ha intrapreso 10 anni fa con la grande dichiarazione di Tessaloniki di giugno 2003, tra l'altro, quindi siamo a 10 anni da quella dichiarazione, in cui gli Stati membri dell'Unione Europea si sono impegnati ad accogliere tutti i paesi della ex Jugoslavia più l'Albania, e dopo 10 anni il primo paese entra. E ovviamente in questo periodo di crisi ci sono molti dubbi nei Balcani sulla volontà vera dell'Unione Europea di far entrare anche gli altri paesi. Quindi il fatto, il semplice fatto che la Croazia sia riuscita ad arrivare a questo traguardo, credo che possa portare un buon esempio anche per gli altri paesi della regione. Nicole, scusami Rosa, poi torniamo. Nicole, credo che puoi confermare questa posizione, anche perché in una delle risposte che il Presidente dà sì. C'è questa attenzione al confine, perché è un confine esterno, quello della Croazia, molto impegnativo, molto lungo tra l'altro, perché è un confine... Stesso Presidente della Repubblica infatti ha ammesso che sarà un impegno molto grande quello di mantenere questo lungo confine esterno dell'Unione Europea, quindi con Serbia, Bosnia e Erzegovina e un pezzettino di confine col Montenegro sulla costa adriatica, si aspetta che da questo punto di vista dalla stessa Unione Europea otterrà degli aiuti per far sì che questo confine funzioni secondo le direttive europee, ma allo stesso tempo lui desidera che questo confine non diventi una muraglia cinese. Sì. Desidera che i paesi vicini di casa, che poi sono paesi che facevano parte della Federazione Jugoslava fino al 91, fino all'inizio della dissoluzione di quella federazione, possano entrare in Croazia, quindi in Unione Europea, con uno status facilitato, così come la Croazia ha potuto fare i cittadini che con la carta d'identità potevano muoversi verso paesi dell'Unione Europea confinanti come la Slovenia, l'Ungheria, l'Italia, senza bisogno né di visti né di passaporti. E rispetto a questo un altro punto, quello che ha detto Rosa è vero, l'ingresso della Croazia in Unione Europea sarà importantissimo perché sia il Presidente della Repubblica Josipovic ma anche i due deputati con cui oggi ho avuto intervista stamattina, deputati del Parlamento croato, hanno detto noi lavoreremo per sostenere quanto prima l'ingresso dei nostri vicini di casa in Unione Europea, perché questo darà stabilità e pace nella regione. Rosa, tu fai parte anche di un gruppo di analisti politici, presiedi e coordini un programma Europa nel mondo e un forum che ha il focus proprio sui Balcani, quindi hai un po' il polso della situazione anche a livello generale. L'Europa è pronta ad accogliere la Croazia? L'Europa è pronta ad accogliere la Croazia. È un po' meno preparata al futuro ingresso degli altri paesi dei Balcani. E quindi sarà il ruolo che la Croazia potrà giocare per convincere i suoi colleghi europei a continuare questo percorso di adesione anche per il resto dei Balcani sarà molto importante. L'Europa è pronta ad accogliere la Croazia, ci sono degli elementi, così, delle zone d'ombra, delle preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla corruzione nel paese. Un rapporto recente di Transparency International sostiene che la Croazia insieme alla Slovenia sono due dei paesi più corrotti in Europa, e questo è una questione europea che non riguarda solo i Balcani, ricordiamolo, e quindi ci saranno delle attenzioni particolari su certi aspetti della governance in Croazia. Però appunto i dubbi sono soprattutto sugli altri paesi che continuano ad avere molti problemi, molti dei quali eredità delle guerre, e che l'Europa può continuare a giocare un ruolo fondamentale nel risolvere questi problemi, nel superare questi problemi, però è altrettanto fondamentale che la prospettiva di adesione sia trasparente, chiara e sull'orizzonte. Perfetto, grazie davvero a Rosa Balfour di euronews.it, il suo articolo abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine Facebook e Twitter, dove potrete trovare il link alle prossime puntate dell'Altra Europa, Rosa, e grazie anche a Nicole Corritore. Nicola, saranno ore di festa oggi, sabato, domani in Croazia, al di là delle tante oggi, parole, al di là sì. delle tante attese, però è festa. È festa, oggi si continua, in realtà si è cominciato già giovedì, si continua con diversi eventi culturali in città. Nella piazza principale di Ban Jelačić domani si apriranno le celebrazioni ufficiali con la presenza del Presidente della Commissione Europea e di altri rappresentanti di altri stati europei. che si chiuderà alla sera a mezzanotte col discorso di Ivo Josipovic e l'inno alla gioia a mezzanotte esatta di domani. Insomma, che sia veramente gioia vera. Ci saranno molti problemi, ci saranno discussioni, ci saranno anche scontri, però almeno per questo istante che sia gioia vera. Grazie Nicole, buon lavoro a te, a tutto il tuo gruppo, a tutta la redazione di balcaniecaucaso.org. Un Europost-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. The Great Complotto dei Giovani Emigrati. Giovani Emigrati, c'è una web radio per voi. The Great Complotto Radio è una radio nata da un gruppo di giovani di Pordenone, tra i quali alcuni che viaggiano o vivono all'estero e che hanno deciso di trovare un mezzo per dare voce ai giovani italiani emigrati in uno spazio autoprodotto ed autogestito. L'idea è di aiutare i giovani all'estero a condividere le proprie esperienze, i problemi, ma anche scambiarsi dritte culturali attraverso recensioni di film, libri, eccetera, che ognuno può postare sul blog collegato alla radio. Il nome, The Great Complotto, si ispira all'energia e creatività del movimento punk omonimo nato nella città di Pordenone alla fine degli anni 70. La radio è aperta a tutti i generi musicali, dalla classica al rock, e ha i suoi programmi di letteratura, di attualità, 6 trasmissioni dall'estero, Stoccolma, Londra, Madrid, Dublino e Parigi, e ha anche una trasmissione in lingua inglese. Se siete interessati ad ascoltarla o volete offrire la vostra collaborazione, andate su thegreatcomplottoradio.com. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, ci trovate qui in diretta, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, le nostre piazze virtuali che aggiorniamo con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare o agli Europost-it e tutto ciò poi lo potete anche ritrovare sul nostro sito radio24.it. Parliamo di spreco che è uno degli argomenti a cui l'Unione Europea ha deciso di dare battaglia su sollecitazione italiana. Qualche settimana fa sia il parlamentare Salvatore Caronna, ma soprattutto il presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, hanno coordinato questa battaglia europea contro lo spreco. È stata lanciata dal Last Minute Market, questa esperienza italiana ideata da Andrea Segre, ex preside della Facoltà di Agraria di Bologna. Si spreca troppo in Europa. Pensate che ogni europeo ogni anno butta via 180 kg di alimenti. 180 kg è una cifra abnorme se la moltiplicate per i 500 milioni di europei. È stato proposto di indire il 2014 come anno europeo contro lo spreco, il 2014 o il 2015, insomma, quella sarebbe un'etichetta, sarebbe un cappello importante. Però ci si sta muovendo congiuntamente in questa direzione, soprattutto in tempo di crisi, cercare di ridurre quelli che sono sprechi inutili. E ci sono anche tante esperienze europee dove lo spreco diventa risorsa, e andiamo proprio a parlare di una di queste. Si chiama ReFood, è nata in Portogallo da un'idea di un sessantenne di origine statunitense. Con noi c'è un italiano, si chiama Alessandro Giordano, vive a Lisbona ed è uno dei volontari, appunto, che si dedica a ReFood. Ciao Alessandro, buon sabato. Ciao Federico, buon sabato, buongiorno a tutti. Di cosa ti occupi in Portogallo di preciso? Come professione, cosa fai? Lavoro in un centro che coordina la mobilità elettrica in Portogallo e lavoro anche a progetti europei. Ho capito. E adesso comincerò un dottorato. Insomma. Tu sei uno dei tanti figli dell'Erasmus, vero? Figlio dell'Erasmus e Erasmus Placement. Erasmus in Danimarca e Placement in Portogallo, e poi mi hanno preso a lavorare. E via. Così, abbiamo fatto un breve pezzo di vita. Esatto. e dedichi parte del tuo tempo anche a questa istituzione privata che è ReFood, che ci sia un'esperienza molto particolare, molto bella e anche molto replicabile, per questo che ne vogliamo parlare. E ce la vuoi descrivere? Sì, ReFood nasce sta nascendo adesso, in poche parole. Ha mosso i suoi primi passi in 2 anni fa, verso il marzo 2011, e adesso siamo operativi in due quartieri di Lisbona. Però adesso stiamo anche aprendo altri centri locali in vari punti di Lisbona. È nato in uno dei quartieri del centro di Lisbona, e di quello di cui si occupa è praticamente noi. Prendiamo i cibi già preparati da ristoranti, bar, supermercati, quei cibi che vengono prodotti magari in eccesso, che esteticamente non sono perfetti e quindi i bar alla fine non riescono a vendere. Sì. Poi li prepariamo e li distribuiamo a delle famiglie che sono in stato di necessità, insomma, se è un bisogno sempre crescente, soprattutto in un paese come il Portogallo che verso ormai in una crisi profonda. Quindi voi con dei team organizzati verso l'orario di chiusura solitamente di quelli che sono ristoranti o di quelli che sono locali, per esempio i bar, passate a raccogliere il cibo in eccesso o in scadenza, lo rimpacchettate, se ho capito bene, e poi l'andate a distribuire a delle famiglie che partecipano al progetto? Sì, soltanto nel primo centro sono già un 50 famiglie e adesso operativamente saranno sulle 100 famiglie, contando tutti i due centri, si parla di 300-400 persone soltanto di beneficiari. Mm-hmm. Però sì, arriviamo nell'ora di chiusura, siccome è un progetto micro locale, cioè partito da un quartiere e si espanderà in tanti quartieri. Il nostro obiettivo è di avere tutta Lisbona coperta per la fine del 2014, quindi avere un 30 più o meno centri. Ovvio che se ci espandiamo in tutta Lisbona ci sono dei quartieri, magari quelli del centro, dove ci sono un sacco di ristoranti e la popolazione, insomma, è bisognosa, certo. Non ce n'è molta, invece altri quartieri in cui non ci sono pochi ristoranti e molta popolazione. Darei intanto la pagina Facebook, che è facebook.com/ReFood Portugal, per avere tutte le informazioni. Alessandro, un'ultima domanda, perché ci sono esperienze simili alla vostra. La vostra è particolarmente organizzata, molto funzionale, molto agile, e la domanda è questa: con l'avanzare della crisi, col passare appunto dei mesi, avete visto un cambiamento nell'utenza, in quelli che sono i beneficiari? Perché immagino che forse inizialmente sono senza fissa dimora, ma la crisi ha portato povertà anche in quella che era considerata la classe media. Sì, l'obiettivo di ReFood, diciamo, che sono proprio le famiglie. I senza tetto se ne occupano altre organizzazioni. Però ho visto, facendo volontariato due giorni fa, ho visto che c'è una crescita delle famiglie abbastanza esponenziale, però vedo anche la difficoltà dall'altra parte, dalla parte dei ristoranti. A volte mi è capitato di fare dei percorsi dove c'era sulla mappa un ristorante e poi, insomma, era chiuso, non so bene se per ferie o proprio chiuso, quindi vedo una dinamica da tutti e due i punti di vista. Grazie davvero Alessandro Giordano. Grazie. Ricordiamo ancora facebook.com/ReFood Portugal. Ciao e buon lavoro. Ciao anche a te, grazie a tutti. Cambiamo completamente argomento con l'arrivo dell'estate, parliamo di turismo perché per la prima volta milioni di turisti in viaggio all'interno dell'Unione Europea quest'anno saranno pienamente tutelati da un insieme di diritti del passeggero, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, e la Commissione Europea ha lanciato, sta lanciando una imponente campagna di informazione. C'è un sito internet, ci sono applicazioni, ci sono manifesti, c'è proprio la voglia di accompagnare i turisti in questa lunga estate. Per avere qualche dettaglio in più abbiamo invitato la capa ufficio stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diamo il benvenuto a Evelina Jelenkvoska. Ciao Evelina. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Quest'estate quindi andremo in vacanza più sicuri grazie appunto a questa campagna di informazione sui diritti del passeggero lanciata dalla Commissione Europea. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di informare, nel senso che i diritti ce li abbiamo già e ce li abbiamo già da tempo. La novità per quest'anno magari è quello che ai diritti che avevamo già prima, che erano quelli per i viaggi in aereo e i viaggi in treno, si sono aggiunti per la prima volta adesso anche vie navigabili e autobus. Il problema è che non lo sappiamo, è stata fatta un sondaggio e 2 su 3 non sappiamo che ce l'abbiamo, alcuni anche 7% ignora che proprio ci sono i diritti. Quindi quello che la Commissione sta cercando di fare è di informare i cittadini perché possano eseguire i loro diritti. Mm-hmm. Quindi una campagna stampa, ho visto che sono stati scelti alcuni luoghi simbolici, sono importanti, sì. Aeroporti, sono importanti città, poi ovviamente bisogna arrivare ai cittadini, però è la rete, è internet il canale privilegiato per raccogliere queste informazioni? La rete è privilegiata, ma privilegiamo tutto, stiamo cercando di arrivare per vari canali, però ovviamente sulla rete, per esempio, per permettere ai cittadini di essere informati e di avere sotto mano uno strumento utile per quando sono in viaggio, c'è un'app disponibile sui nostri siti, sul sito della Commissione Europea, che si può facilmente scaricare, che è adatta da Apple, iPhone, iPad, Google, Android, eccetera, eccetera, che ciascuno può portare con sé e quando ha un problema si può informare, perché ovviamente le regole sono dettagliate, sono specifiche, dipende dalle circostanze, dipende dai mezzi, quindi è difficile andarseli a leggere e ricordare tutti, forse anche inutile perché speriamo che viaggiamo senza problemi ovviamente, però se purtroppo un problema ci capita, così fa anche comodo averlo sul telefonino. I tuoi diritti di passeggero in mano, questo è un po' lo slogan scelto per la campagna, e c.europa.eu come sempre il sito dove raccogliere tutte le informazioni. Grazie davvero Evelina e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Buona estate. Grazie, buona estate. Adesso un post-it, poi le informazioni per chi sta viaggiando, è ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Arriva la bella stagione. Preparatevi per le Summer School. Volete migliorare la vostra conoscenza delle lingue e fare un'esperienza di studio all'estero incentrata sulle materie che più vi interessano? Se volete partire quest'estate, è già ora di organizzarsi. Le Summer School di tutta Europa stanno lanciando ora i propri corsi. Qualcuno davvero interessante, adatto a studenti di ogni tipo di specializzazione. Qualche esempio? Un corso per imparare termini ed argomenti legati al tema delle intelligenze artificiali al King's College di Londra. Un corso centrato sulle policies di integrazione europea all'Università di Kristiansand in Norvegia, utile anche per acquisire crediti formativi. Un corso sullo sviluppo sostenibile in Polonia o ancora lezioni sulla scuola architettonica Bauhaus a Weimar. Le possibilità sono davvero tante. Ne potete vedere una raccolta sui siti summerschoolsineurope.eu e eurocultura.it. L'altra Europa. New car caviar. In queste puntate che ci accompagnano verso l'estate, abbiamo deciso di dedicare uno spazio in ciascuna puntata anche alla lettura, anche dei libri, che possono essere una sorta di cammino di formazione all'Europa. Sono saggi, sono romanzi, sono libri di vario genere, proprio per proporre tanti aspetti diversi, tante facce della nostra Europa. E partiamo un po' dal cuore. Quante volte sentiamo dire: vabbè, l'Europa è solo l'euro, l'Unione Europea è l'euro, tutto il resto non c'è, tutto il resto non è nato, tutto il resto non è stato creato, si è partito dalla moneta e lì si è rimasti. E invece la domanda "ma quanto l'euro ha cambiato l'Europa?" ha una risposta, e questa risposta è stata raccontata in un testo e si intitola Quo Vadis Europa, ed è stato curato da Francesco Gui, docente di storia moderna presso l'Università La Sapienza di Roma, e da Thierry Vissol, economista e consigliere speciale in comunicazione presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Thierry è qua con noi. Buongiorno Thierry, buon sabato. Sì, buongiorno, buon sabato. E anche devo aggiungere che il libro effettivamente che ho curato è pieno di vignette satiriche sull'Europa, dunque si può anche leggere d'estate solo le vignette. Hai ragione. E, ahimè, perché insomma è il bello della satira, no? Si può fare satira sull'Europa e l'avete dimostrato. Tra l'altro c'è anche un bellissimo concorso sulle vignette promosso proprio dalla Commissione Europea, e quindi cogliamo l'occasione anche per rilanciarlo. E, Thierry, raccontando la storia dell'euro si racconta la storia dell'Europa? Beh, sì e no, sì, di fatto, perché diciamo che la moneta è centrale in tutti i processi economici, dunque senza moneta non si può fare niente, ma la moneta non è sufficiente, diciamo, per fare le cose, e ci vuole anche politica, e appunto è questo un po' il problema dell'Europa, che non c'è abbastanza politica, ma c'è una moneta unica. Mm-hmm. Una moneta unica abbastanza forte. E non solo te lo chiedo dal punto di vista economico, ma è anche abbastanza amata, visto che a questa moneta ci si aggrappa tutte le volte che c'è bisogno di Europa. Ha le basi questo euro per tenere su tutta l'Unione? Sì, si deve anche considerare, diciamo, un po' la storia, e quello che facciamo anche in questo libro, che se vuoi tutto è nato un po' dalla situazione del dopoguerra, perché a quest'epoca c'era una moneta internazionale che era il dollaro, sì. E questa moneta doveva giocare, diciamo, un ruolo di coordinazione per tutto il mondo, di modo che potesse funzionare l'economia internazionale. Ora il problema è che gli americani hanno gestito la loro moneta in una maniera estremamente egocentrica, e si chiama una politica di benign neglect, cioè che hanno finanziato le loro guerre, la loro crescita, eccetera, facendo una crescita monetaria che ha fatto esplodere il sistema monetario internazionale negli anni 70. E dunque gli europei, che stavano provando di costruire giustamente uno spazio economico e uno spazio politico, si sono ritrovati in una situazione dove non potevano più gestire questa problematica, e si è imposto a questo momento l'idea di fare la nostra propria moneta, appunto per difenderci contro le turbulenze del mondo, e particolarmente della moneta internazionale, che era e rimane il dollaro. E questo è riuscito in un certo modo, perché adesso parliamo molto giustamente del peccato dell'euro in un certo modo, ma non è il problema l'euro. Il problema è che quando c'è una moneta, e quando l'abbiamo costruito di modo che sia, diciamo, un elemento di stabilità a livello internazionale e a livello nazionale, allora si deve andare oltre, si deve anche fare una politica e un'economia comune. E questo è, diciamo, il pezzo mancante della costruzione, diciamo, europea e economica e monetaria. E Thierry, quando si parlava di euro, quando si è proprio costruito l'euro, quando si sono scelte le banconote, quando si sono scelte le monete, tu eri là, vero? Eri nel cuore operativo. Sì, assolutamente. All'epoca ero responsabile di un settore che si chiamava EQ, perché all'epoca la moneta unica si chiamava EQ. Mm-hmm. E dunque effettivamente ero al centro, diciamo, non solo della costruzione giuridica, cioè di scrivere una parte del trattato di Maastricht, ma anche di provare di coordinare l'azione, particolarmente delle zecche, per fare le monete in euro. Ecco, e quando adesso guardi il tuo euro in mano, ti riconosci la tua storia, è un qualcosa in cui ti identifichi ancora? Sicuramente, perché abbiamo dovuto lottare moltissimo per fare le monete in euro, perché da un lato c'erano le imprese, gli stati membri che non volevano cambiare un sacco di cose e non avevano pensato tanto ai utenti, particolarmente alle facce della popolazione in più in difficoltà, particolarmente i ciechi, ma anche coloro che hanno delle allergie, per esempio. E dunque alla Commissione abbiamo dovuto lottare tantissimo per poter fare consultare tutti i ciechi d'Europa, per poter designare delle monete che siano riconoscibili non solo alla vista ma anche al tocco. E poi siamo riusciti, è la sola volta che è capitato nella storia giuridica dell'Unione Europea, di fare cambiare un regolamento già adottato per eliminare il nickel di tutte le monete, perché il nickel è molto allergizzante e dunque poteva essere un problema per l'uso delle monete. Dunque sono state delle battaglie che non si pensano molto spesso, ma molto importanti, perché anche là la Commissione Europea ha provato di difendere il bene comune e non quello di alcuni paesi che avevano già tutti gli attrezzi per fare le monete in nickel ma che non volevano cambiarli, o delle ditte private, perché ci sono anche delle ditte private che producono delle monete che non volevano fare investimenti per proteggere giustamente gli utenti. Quo vadis Europa, per aiutare a capire questa Europa, dove sta andando dopo la creazione della moneta unica, non solo la storia della moneta, ma tanti saggi, tanti interventi, tanti contributi in questo bel libro, che è sicuramente una ottima lettura, un ottimo approfondimento per capire meglio chi siamo e per capire meglio, appunto, quando infiliamo le mani in tasca e tiriamo fuori un euro, capire tutto quello che c'è dietro, tutto quello che ci sarà davanti, perché è un cammino in itinere. Grazie davvero a Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media e comunicazione alla rappresentanza della Commissione Europea a Roma, in attesa delle vignette, vero, per il prossimo concorso. Sì, tra l'altro devo segnalare a tutti coloro che ci ascoltano che possono votare online sul sito della rivista internazionale www.internazionale.it per la migliore vignette secondo loro, e questo è aperto fino al 15 settembre 2013. Perfetto, grazie Thierry, buona estate. Grazie a voi, anche a voi. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aine e Miriam Lucchetti, che come hanno scritto la puntata, Pietro Lacorte oggi alla parte tecnica. Vi ricordo che tutto ciò lo potrete riascoltare sul nostro sito radio24.it e tutti i link li potete trovare sulle nostre pagine Facebook e Twitter, sono a mio nome Federico Taddia. Noi come sempre ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.